innocenti si dissolve, nessuno spara salve inoltre, niente che sconvolge il cuore degli uomini che traspare nero, inferno sulla terra è ancora più chiaro, mi sa che l'ignoranza qua non c'entra, il quadro è molto semplice, lo di una tendenza, il mio cervello cresce sapienza, fra tutta questa indifferenza rimane solamente la speranza, e sai, il male che sta dentro non passa, qua si batte ogni record e non si batte cassa, mentre mobilizza l'anima dentro un cerchio, basta un giorno in più e ti svegli che sei già vecchio, l'onore, l'orgoglio, sotto la terra trema, la vita, in lotte se pure estrema, niente come colossi, sino all'ultimo round, e il pubblico batte dall'underground, intanto bruciano le pagine, centro solo l'immagine, l'essere invece rimane al margine, le lacrime non riempiono le falle, ci accontentiamo del bicchiere mezzo vuoto ma non beviamo le balle, fuori piovono bombe, non serve il TG per capire che siano le vittime in queste catombe, si sopravvive ai margini con ogni escamotage, uomini liberi che della propria vita fan menage, un voyage verso mondi diversi da questo verso, verso mondi creati dal nostro estro, altro sfondo, altro contesto, stesso mondo mai negativo, padrone del mio destino, convinto del perché vivo, acqua è una quantità d'oro stai a fuoco rapido, urla mute contro un mondo sordo, rende piatto il battito, in giro uomini come mine vaganti, pronte a esplodere nell'ora di punte mezze passanti, male che stai dentro non passa, qua si batte ogni re.